Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Chi ha tempo, non aspetti tempo, inizi a chiamare subito il nostro numero verde 800 24 00 24. Buongiorno da Nicoletta, oggi consigli e ricette per un inverno gagliardo. Giochiamo d'anticipo e andiamo a scoprire di che cosa ha bisogno il nostro organismo per affrontare in piena forma la stagione fredda. Una stagione, lo sapete bene, un po' impegnativa, che ci mette sempre alla prova. Stanco, tanto stanco, sono stanco da quando sono nato, sono stanco, mi voglio sedere, sono stanco. La stanchezza autunnale, cerchiamo già di contrastare questa sensazione fastidiosa. E iniziamo subito, e dato che il buongiorno si vede dal mattino, iniziamo prendendo a prestito dalla medicina popolare un rimedio sempre efficace, proprio come quelli che piacciono a noi. Al mattino appena svegli, potete cominciare da domani, bevete un bicchiere di acqua a temperatura ambiente. Se già lo fate, chiamateci per raccontarci gli eventuali benefici. Alcuni la bevono a temperatura ambiente, alcuni un pochino caldina con l'aggiunta del limone. Obiettivo è idratare e depurare, ed è quello che consiglio gli esperti nei cambi di stagione e quello che impareremo a fare oggi con i nostri ospiti. Saluto subito il dottor Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano, che è qui in studio con me. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Dottor Speciani, depurarsi è semplice, come bere un bicchiere d'acqua. Ma che bella la cosa che hai detto, è proprio questo contatto con l'acqua che rimane e continua ad essere la parte dominante del nostro corpo, quindi siamo fatti più di acqua che di altro, e quindi richiamare l'acqua, possibilmente pura, pulita, e questa acqua che entra nello stomaco è un'azione di stimolo alla diuresi, facilita una serie di cose, quindi bellissimo, è proprio rimettere in moto l'energia. Mi piace, ma fa parte, devo dire, che molti degli anziani che incontro sono persone che usano questo tipo di tecnica, quindi vuol dire che consente la sopravvivenza, porta buono. E voglio salutare anche il professor Giorgio Battaglia, primario di nefrologia all'ospedale Santa Marta di Acireale, che abbiamo il piacere di avere qua in studio con noi. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno a te Nicoletta. Allora, il obiettivo dei programmi depurativi è aiutare l'organismo a eliminare le tossine. La parola è già evocativa, professore. Queste tossine. Fa un po' specie parlare di tossine. Come si diceva poco fa, noi siamo fatti l'80% di acqua, quindi la maggior parte di noi stessi è acqua. E voi lo immaginate perché stiamo sulla terra e non stiamo dentro il mare? Perché soltanto perché abbiamo due organi come i reni che ci permettono di riequilibrare e di non annegare dentro l'acqua. Ma l'acqua è anche un modo per eliminare tossine. Soltanto il 20% di ciò che noi introduciamo diventa per noi problema metabolico. Noi lo utilizziamo, l'altro 80% deve essere eliminato. E l'acqua che introduciamo ci permette di rinnovarlo continuamente, quest'umore che abbiamo dentro. E quindi per fortuna noi siamo in grado di eliminare quello che non serve, e c'è, come faceva riferimento a lei professor Battaglia, una splendida coppia che lavora per noi, i reni. Quello che dobbiamo fare è assicurarci che siano sempre in buona salute. Accidenti, che vento! Senti, ho bevuto troppo, devo fare la pipì. Stai ancora facendo pipì? Smettila, basta, mi hai sentito, basta, smettila! Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Eccola! Senti, il passaggio persona! Calmo, stai calmo, è pipì! Non aver paura. Ma cogliuto pure, guarda, dopo un braccio! Ma fanno schifo proprio in questo paese, fanno schifo proprio! Ma lo smetti! Già non si lavano, ma oltre la pipì, con un balcone, mi prego, mamma mia, una malattia, sì! Una malattia, ci sicura, stai calmo, stai calmo! Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà! Eddie si becca tutte le ragazze e non porta il pallolino. Dovrei provare anch'io questa faccenda del vasetto. Se devi far pipì, salti su e giù, ma a volte non funziona neppure con la gru. Allora provi a saltare un'altra volta, è solo questo che conta. professor Battaglia, per depurarsi bisogna fare tanta pipì, vero o falso? Sì, bisogna fare pipì, perché con la pipì, questa cosa che tante volte non guardiamo o disprezziamo, ci permette di rinnovarci, ci permette di cambiare quell'80% di acqua di cui siamo fatti e di eliminare le tossine. Bere acqua quindi, ma quanta acqua? Francesco dalla provincia di Treviso, buongiorno a lei, 800 24 00 24. Pronto? Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno, niente, io ho chiamato perché sento la trasmissione tutti i giorni in macchina praticamente. Bravo, lei mi piace. Siete bravissimi e simpatici, comunque andiamo al sodo. Io bevo al mattino a digiuno dai 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua ogni giorno. E poi logicamente faccio tanta pipì anche qualche volta, anche di notte, perché poi durante quando mangio bevo un bicchiere di vino rosso e la sera bevo 2 bicchieri di vino rosso. Sì. Volevo chiedere se è troppo poco. Dottor Speciani e professor Battaglia, allora Francesco ci ha dato tante indicazioni. Dottor Speciani, qual è la colpita di più? Questa intenzione a ripulirsi, no? Nel senso che evidentemente il rapporto con il vino di Francesco che ci chiama porta al mattino a cercare di lavare i peccati della notte, come dire, no? Questa è un po' la sensazione. Devo dire che il problema delle quantità non deve spaventare, perché ognuno ha una sua individualità, quindi ci sono dei numeri più o meno per cui sappiamo, da cui credo che Battaglia sarà ancora più preciso, però è vero che ogni persona ha un suo modo di essere rispetto alla corporatura, alla struttura, quindi mi ha colpito soprattutto questa immagine della mattina come elemento depurativo, ma forse anche emozionale del suo senso di sgarro serale. Ecco. Professor Battaglia poi dice: naturalmente faccio tanta pipì, lo credo, perché... Ma fa bene. Fa bene fare tanta pipì, come dice lui. E quello che mi ha incuriosito è che una nota molto positiva del nostro radioascoltatore è che la beve durante il giorno 2 litri e mezzo in continuazione, perché è una cattiva abitudine quella di fare una quantità di acqua enorme, per esempio in un dato momento della giornata. Questo provoca un grande stress per il nostro organismo. Invece berla continuamente durante il giorno è un fatto molto positivo. Bravo. Quindi bisognerebbe distribuirla nell'arco della giornata. Vittorio, buongiorno a lei da Ferrara. Buongiorno da Ferrara. Sì, ascolto con molta attenzione e quello che diceva lei, quello dice anche professore, perché io lo sto facendo da anni, ne ho 61, ma io ricordo avevo 20 anni quando, sentendo qualcuno che diceva l'acqua fa bene, mia madre lo ostetica, l'acqua fa bene, e ho iniziato a berla. La sera quando vado a letto sempre la mia bottiglia d'acqua, una volta era da 1,5 litri, poi è uscita quella da 2 litri, e la mattina fino a 20 anni fa mi scolavo quasi un litro, ma proprio appena mi alzavo, appena mettevo i piedi giù dal letto, perché mi sentivo bene, mi ricordavo una vecchia pubblicità di quel tizio che beveva l'acqua e riempiva il corpo piano piano di acqua, poi intanto che bevo acqua vedo che gli occhi si aprono di più, cioè mi sento già sveglio, mi alzo molto presto la mattina. Ho dovuto poi modificare le mie abitudini pur bevendo ancora tanto, perché mi sono messo a fare un lavoro che mi porto fuori dai clienti spessissimo, e qualche volta mi è capitato che appena stavo in macchina andavo verso il cliente, dopo la pipì da matti dovevo fermarmi prima, e l'aneddoto, se posso, mi ricordo che andavo in un bar vicino Mantova, allora per non andare subito in bagno faccio: scusi, cioè, posso fare un caffè? Fatto, certo. È un classico, bagno, uno chiede sempre il caffè. No, il bagno è rotto, fa: oh mamma mia, ho preso il caffè, il bagno è rotto, l'ora e il secondo, ho detto il bagno c'è, fatto sì, ora mi faccio un caffè e non vado in bagno. Vittorio, grazie per averci chiamato, 800 24 00 24, dottor Speciani, l'acqua ci aiuta anche ad avere meno fame, o almeno a riconoscere il senso di fame che spesso noi confondiamo, noi mangiamo ma in realtà dovremmo bere, perché sono vicini i centri della fame e della sete, sono proprio, immaginiamo come due spilli uno vicino all'altro a livello cerebrale, quindi talvolta quando noi in realtà crediamo di avere fame e abbiamo sete, il nostro corpo ha bisogno d'acqua. Questo è un suggerimento che do spesso ai miei pazienti, ai clienti che vedo, cioè quando sono in una fase di riduzione del peso, riduzione della massa grassa, è proprio quella di bere un bel bicchierone d'acqua tranquillamente per capire questa differenza. Se è una fame fasulla, passa con tranquillità. Se la fame è vera, invece, va rispettata e poi si segue il mangiare successivamente. Questa è una buona indicazione. Professor Battaglia, quindi distribuiamo l'acqua nel corso della giornata, non facciamo l'errore di berla tutto insieme in un momento particolare, come ad esempio alla mattina, cosa che saremmo portati a fare. C'è una preferenza, basta che sia acqua. Certo, qualunque acqua, perché i reni, dobbiamo pensare che durante le 24 ore filtrano una tonnellata e mezza di liquidi. Una tonnellata e mezza di liquidi. Peccato che me l'ha detto, poteva essere una domanda per i nostri ascoltatori, ma ne sto preparando un'altra. E quindi noi dobbiamo introdurre l'acqua e introdurla durante il corso della giornata, perché i reni non smettono mai di funzionare. I reni sono come in una squadra di calcio, il centrocampista che la squadra deve avere sempre, perché l'attaccante fa il gol, il difensore difende, ma il centrocampista deve essere sempre presente all'interno del gioco perché dirige il metronomo. Sì, sì, questo lo dice perché lui è specialista di reni, se fosse un epatologo sarei qui a dire circa lo stesso del fegato. Diciamo che fan parte di quella coppia lui tripletta. Lui porta acqua al suo mulino, dottor Speciale. Porta acqua al suo mulino, hai detto bene. Vero? Allora, noi abbiamo iniziato con un bel bicchiere d'acqua tiepido a temperatura ambiente, però ci depuriamo anche mangiando. L'importante è scegliere gli alimenti giusti, inserirli con una certa frequenza nei menù di cambio stagione quando vogliamo un po' aiutare il nostro organismo a depurarsi per affrontare in piena forma la stagione successiva. Io ho preparato insieme a Laura Vanossi, che è in redazione con me, una lista della spesa. La sentiamo e poi a lei, a voi, il compito di aggiungere o togliere qualcosa. Ma ai nostri amici da casa dico ascoltatela con attenzione, perché subito dopo vi farò una domandina che vi permetterà di ricevere a casa, in collaborazione con la Rizzoli.it, recuperare la tolleranza alimentare del dottor Speciani. Fagioli a zucchi, finocchi, orzo, mais, radicchio, lattuga, verza. I magnifici 7, quali di questi alimenti è il più ricco di fibra? 800 24 00 24, se volete partecipare alla domanda, è abbastanza semplice, per ricevere a casa recuperare la tolleranza alimentare. Intanto spendiamo due parole su questa lista della spesa, mi promuove o mi boccia? Ma mediamente si promuove, ma devo dire che come ancora i vecchissimi libri di fitoterapia di Jean Valnet, che è stato la storica guida della fitoterapia mondiale, un po' tutte le tisane, tutti i vegetali hanno anche questa funzione depurativa tendenzialmente, tant'è che io tendo poi a chiedere alle persone di mangiare comunque qualcosa di crudo, vivo e colorato, cioè di mangiare comunque verdura o frutta cruda, perché la loro valenza, la loro ricchezza d'acqua ad esempio è un modo per poter stimolare anche un'azione diuretica di ripulizia indotta proprio da globalmente, lo sappiamo tutti dicono mangiamo l'anguria ad esempio, sì, che è un ottimo veicolo di zuccheri leggeri veicolati con molta acqua, con un po' di sali minerali, ed è tipico che dopo la fetta d'anguria uno poi abbia si va al bar a chiedere un caffè. Esatto, si va al bar a chiedere il caffè, no? quindi mediamente è promossa. Allora, lo chiedo a Roberto Scaltritti, che così lo ringrazio, che regge la parte tecnica, risentire questo elenco in modo che i nostri ascoltatori possano capire quale di questi prodotti è il più ricco di fibre. Fagioli a zucchi, finocchi, orzo, mais, radicchio, lattuga, verza. Professor Battaglia, non solamente acqua ma anche tisane, alimenti sono particolari. Il dottor Speciani diceva appunto che ci sono alimenti come l'anguria, adesso non è più stagione, ma anche in autunno se ne trovano particolarmente ricchi di acqua. Ma nonostante noi beviamo acqua e ci alimentiamo correttamente, spesso ci sentiamo un po' tesi, gonfi, insomma ci sembra che in quest'acqua che noi introduciamo non vada a finire a dovere, ecco, non ci depuri completamente. Ecco quello che noi chiamiamo comunemente ritenzione idrica. Segno che i reni non funzionano bene, che beviamo troppo poco, che beviamo nei momenti sbagliati. Ma come tutte le cose bisogna avere la misura. Per esempio, poco fa si diceva dell'anguria. L'anguria sì ci fa fare pipì, ma l'anguria è ricca di zuccheri che quando noi introduciamo c'è una secrezione di insulina. L'insulina fa ritenere sodio e quindi bisogna stare attenti perché ritenendo sodio noi riteniamo liquidi. Certo. Quindi tutto va molto equilibrato. Parlavate di fibre. Le fibre sono un potente anticalcolotico perché le fibre prendono il calcio dal nostro intestino e non lo fanno andare in circolo e quindi non fanno provocare i calcoli renali. Questa è una cosa che non tutti si sa, questa è una cosa molto... prendere delle fibre significa non avere calcoli renali. E ci sono anche altri studi che mettono al centro un agrume molto interessante che è amico dei nostri reni, il limone di Sicilia. Io vengo dalla Sicilia e poi oggi ho portato un bellissimo sole qui a Milano. Venga tutti i giorni. Lo vogliamo. Sì, il limone è molto importante, deve essere introdotto nella nostra dieta. Perché il limone è ricco di acido citrico, l'acido citrico è un potente anticalcolotico e rende, per così dire, l'urina molto più fluida e quindi abbiamo la possibilità di eliminare molto più liberamente. I nostri reni ci dicono grazie quando noi introduciamo l'acido citrico. 800 24 00 24, abbiamo Remo da Trento, Enzo da Ravenna, a cui chiedo di farmi da cavalieri per andare a sentire i mercati e il meteo. Li sentiamo subito dopo. Strategie e consigli, ricette per sfruttare appieno questa stagione di mezzo e prepararci all'inverno. L'autunno ti fa sonno lento, la luce del giorno è un momento che irrompe veloce e svanita, metafora lucida di quello che è la nostra vita. L'autunno che sfuma i contorni, consuma in un giorno più giorni, sembra sia un gioco indolente. Ecco, siamo tornati insieme pronti per il nostro programma disintossicante. Approfittiamo dell'autunno per poi vivere di rendita in inverno. E professor Battaglia, siamo sulla ritenzione idrica. Tante volte è un po' una scusa. Noi diciamo, sono un po' sovrappeso perché ritengo i liquidi. Non è ciccia, ma è acqua che non se ne va. Ma per esempio la cellulite, che le donne, cui anche gli uomini guardano sempre, non la è guardate altro... anche voi la cellulite delle donne? Certo, anche la nostra. Perché pensavo che fosse un cruccio solo femminile. Ma sono delle palline di grasso che si sono rigonfiate di acqua, di ritenzione, non è altro. E le donne una settimana prima della loro mestruazione hanno una certa ritenzione idrica. Questo è un problema fisiologico, mentre la cellulite non è un problema fisiologico. Significa che probabilmente noi mangiamo un po' più salato e il salato non è soltanto il sale che noi mettiamo nei nostri cibi, ma si nasconde in tante altre conserve, in tante altre cose che noi mangiamo. E anche un po' troppi zuccheri, come lei ci diceva. Perché diete troppo zuccherate. Lo zucchero, dicevo poco fa, ha un potente ormone che è l'insulina. La secrezione di insulina fa sì che si ritiene sodio. Il sodio fa sì che si ritiene acqua. È un gioco tutto all'interno di questo equilibrio. Quindi, dottor Speciani, in questo cambio di stagione diamo la preferenza ad alcuni alimenti. Noi ne abbiamo dati i magnifici 7, ma sicuramente iniziare ogni pasto con qualcosa di crudo, vivo e colorato ci aiuta. Aiuta assolutamente, ma riduciamo anche assolutamente il sale e attenzione allo zucchero. Andiamo da Remo, che ci chiama da Trento, e anche subito dopo Enzo da Ravenna. Buongiorno a tutte due, Remo. Buongiorno, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Io al mattino un bicchiere d'acqua. Mi è stato consigliato di aggiungere dell'aceto di mela. È una cosa che fa bene o è soltanto una credenza popolare? Per quali effetti l'aceto di mele? Ma più che altro diuretico, credo. Allora, dottor Speciani, professor Battaglia, io ad esempio sposerei il limone, ma... Sì, l'aceto di mele mi piace molto. Il concetto dell'acidulato aiuta, tra l'altro quando si bevono più quantità d'acqua, persone tipo quelli che lavorano in fonderia, che ne bevono tantissimo, cercano proprio per non diluire l'acidità gastrica di aggiungere un minimo di acidità. Per cui un po' di acidulazione dell'acqua, quando se ne beve tanta, può essere utile. Anch'io tendo a preferire il limone come idea, anche perché l'aceto di mele è comunque fermentato, stiamo aumentando il livello dell'intolleranza alimentare ai cibi fermentati, quindi non conoscendolo, è un prodotto che può essere usato. Fondamentalmente, però tifo per il limone, non perché qui di fianco il collega catanese che ce ne farà arrivare una cassa, no? Spero, Enzo almeno. Da Ravenna, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Enzo. Buongiorno a tutti. Io sono 40 anni e ho la pressione minima leggermente alta, cosiddetta border, volevo sapere la relazione che può esserci tra i quantitativi di acqua e l'ipertensione. Io seguo una dieta iposodica, cerco di mantenere il peso sotto controllo. Volevo sapere se l'acqua e la qualità dell'acqua influisce la dieta o il regime. Insomma. Grazie. Il rapporto tra acqua e pressione, professor Battaglia. Ma dicevamo all'inizio che noi siamo fatti di acqua. Però quando aumentiamo il contenuto di quest'acqua nell'organismo, nei tubi che sono dentro la circolazione, noi aumentiamo la pressione dentro questi tubi. Aumentando la pressione dentro questi tubi, aumentiamo la pressione sanguigna. Quindi se noi abbiamo più acqua di quanto noi dovremmo avere dentro questi tubi, si alza la pressione. Probabilmente questo nostro amico ha una pressione borderline proprio perché è la minima, la diastolica, proprio perché ha un volume maggiore di acqua dentro, quindi probabilmente un semplice diuretico preso al mattino potrebbe risolvere il suo problema. Naturalmente il medico a prescriverlo, perché sui diuretici so che voi medici state molto attenti, soprattutto al fai da te. Ci sono delle persone che per sgonfiarsi, o molte donne anche per perdere peso, riescono a recuperarsi i diuretici magari dall'amica o in qualche... Invece il diuretico, ribadiamo bene, è un farmaco che deve essere prescritto esclusivamente dal medico, vero professore? Sì, è prescritto realmente dal medico. Certamente il diuretico è proprio il farmaco, diciamo, più banale proprio per questi tipi di situazioni, che ci danno la possibilità di togliere un surplus di acqua che potremmo avere, ma sicuramente il medico del nostro amico saprà quale consiglio migliore darci. Quello che ci importa a sottolineare con i farmaci in generale, con alcune categorie di farmaci in particolare, è assolutamente vietato il fai da te. Aggiungo anche gli antibiotici. Monica da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Monica. Sì. Volevo dare la risposta per la domanda che avevate fatto. Sì, dei Magnifici 7. Quale di questi ha più fibra? Qual è? I fagioli a zucchi? Fagioli, tutte le leguminose hanno un buon livello di fibra, però non riescono a raggiungere il livello importante poi della regina dell'inverno, no? Che ci guida durante tutto l'inverno, anzi forse per questo il fatto che sia uno dei cibi invernali, che è, posso dirlo adesso? Sì, sì, lo dico, che è la verza. Sì, ormai l'ha detto. Ormai l'ho detto. Ma noi abbiamo forse degli ascoltatori in linea e via SMS che avevano risposto. Adesso vediamo, mi devo collegare con Laura Vanossi che è in redazione. La verza sicuramente ha più fibra. Devo dire proprio come immagine la sua presenza, tutte le sue nervaturine, infatti viene considerato una sorta di base metabolica dentro di tutto, veramente riesce ad avere. Ma questo stesso fatto che si mantenga nel corso dell'inverno, che resiste alle temperature pesanti, che per essere mangiata debba essere raffreddata, cioè proprio ci induce a pensare che abbia delle caratteristiche molto particolari. Infatti ha delle enzimi, sostanze al suo interno sicuramente più ampie. La presenza di fibra è decisamente elevata. Meglio cotta o cruda? Ma io devo dire che trovo un buon bilanciamento tra gli uni e gli altri aspetti. La mia indicazione è, ad esempio, lo dico proprio mentre stavo venendo qua, una mia amica Elisabetta mi ha detto: ma noi io che sto allattando posso aiutarmi a disintossicarmi e a depurarmi con l'autunno? Dico certo, assolutamente, però ti limiti alle situazioni naturali, l'uso dei finocchi crudi ad esempio, che ha una, o della, dei frullati, alcuni degli ascoltatori hanno parlato dei frullati al mattino, che hanno una presenza di acqua legata a sostanze vegetali e quindi con la loro azione metabolica, e questo aiutano a perdere un pochettino di liquidi senza arrivare all'effetto diuretico del farmaco, quindi questo possiamo farlo sempre con estrema tranquillità. Ma poi più volte stamattina è venuta la parola autunno, Guccini ha aperto questa terza parte con la parola autunno. L'autunno no, si ci muove di meno, muovendoci di meno si ha più possibilità di ritenere acqua al nostro interno, quindi aumentare il nostro movimento significa eliminare più acqua, stare troppo fermi, prendere meno ascensori significa accumulare acqua. 800 24 00 24, voglio salutare il dottor Marco Temporin che è in linea con noi prima di dare la linea al traffico. Dottor Temporin, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, un saluto a tutti. Medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto Medico di Altavilla Vicentina. Il dottor Temporin ha per noi due consigli preziosi. Essere e benessere. Temporin, buongiorno. Buongiorno a lei Nicoletta. Autunno, tempo di diete di disintossicanti per eliminare le tossine e per arrivare in inverno pronti per affrontare e anche combattere, prevenire i malanni di stagione. Che cosa c'è di buono nel nostro armadietto verde? Allora, nel nostro armadietto verde possiamo trovare un rimedio adeguato per questo problema, che è un ottimo drenante, ed è il raffano nero. Il raffano nero contiene delle sostanze, che sono sostanze solforate, contenute principalmente nella sua radice, la quale azione è un'azione prettamente d'aiuto a livello digestivo, quindi va anche a diminuire la sensazione di gonfiore, aumenta fisiologicamente la diuresi e ha soprattutto un'ottima azione nelle funzioni fisiologiche del fegato, quindi favorendo le funzioni drenanti del nostro fegato ci aiuta a disintossicarsi. Come lo assumo questo raffano nero? Allora, l'ottimale sarebbe il succo, quindi il succo della radice si trova a disposizione. Però è un po' cattivello? Però è molto cattivello, perché le sostanze solforate hanno proprio questo gusto forte, per cui non è gradito a tutti. In alternativa si possono trovare le capsule, che sono ovviamente in estratto secco e quindi possono essere assunte evitando il gusto sgradevole. Sì, e molti ascoltatori mi chiedono se abbiamo a disposizione magari qualche ricettina di tisana. Io sapevo che lei sarebbe stata in linea con noi, per cui non ho affrontato il tema tisane. C'è chi beve anche il tè verde o magari le tisane dissetanti depurative durante la giornata. Lei ha una ricetta particolare da suggerirci? Sì, ho una ricetta che può essere utile per tutte quelle persone che vogliono proprio fare un periodo di rimessa a nuovo dei nostri organi emuntori, ossia dei nostri organi che ci permettono di eliminare le tossine. Consiglierei questo infuso a base di betulla, carciofo e tarassaco. Queste tre piante assieme possono avere un'ottima azione drenante, un'azione epatoprotettiva, quindi ci aiuta a disintossicare il fegato e soprattutto ci permette di migliorare anche la nostra digestione, che tante volte con il cambio di stagione e anche giustamente come diceva il collega muovendosi meno tende ad essere leggermente più ingolfata. E c'è un piccolo problema, purtroppo io sono cattivello oggi nel prescrivere queste cose perché sono tutte sostanze amare. Quindi io consiglio per i palati più dolci di mettere nell'infusione, aggiungere dei pezzi di mela, ovviamente di derivazione da coltivazione biologica, perché questa dà sapore e toglie quell'amaro al gusto dell'infuso. Bella questa dell'aggiunta di mela, che noi possiamo sfruttare anche per altre tisane. Quando sentiamo un gusto un po' amarognolo che ci dà fastidio, non aggiungiamo zucchero ma utilizziamo la mela. Questo è un consiglio del dottor Temporin che ritrovate anche nel nostro Daily Lab. Dottor Temporin, buona giornata, grazie. Un saluto a tutti, arrivederci. Andiamo a Danna, devo dare la linea a Christian, scusate, da Carpi. Buongiorno Christian. Buongiorno Nicoletta. Lei era in attesa e Laura Vanossi mi ha detto che lei aveva il nome della nostra verdura, aveva indovinato la verdura. Avevo indovinato la verdura, sì. Bravo Christian. E lei come la consuma? Una ricettina da darci? Perché io le leggo una ricettina che mi ha mandato Luca, che scrive: uso la verza tagliata finissima, scottata 3 minuti in acqua bollente, condita con olio, limone, e Luca aggiunge il sale. Noi dovremmo dire poco sale, anzi il dottor Speciani dice no sale. Lei Christian? Allora, io la mangio molto semplicemente, spesso cruda in insalata, quindi se no cotta al vapore, accompagnata magari a una carne. Virtuosissimo, così. Fantastico. Virtuosissimo. Recuperare la tolleranza alimentare in collaborazione con la Rizzoli.it sarà fatta recapitare a casa di Christian, che gentilmente lascerà in contatti alla redazione. Anna, buongiorno dalla provincia di Milano. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai suoi ospiti. Buongiorno a lei Anna, benvenuta. Come gentilezza, io sono in menopausa da 5 anni e la mia dottoressa, anche quale apporto di calcio, mi ha detto di bere moltissima acqua. Purtroppo io questa acqua la bevo tutta la mattina, un litro e mezzo, perché mi aiuta a scaricare molto bene l'intestino, mi fa stare bene, però da quello che ho sentito sembra che non faccio una buona cosa. Grazie Anna, è vero, infatti il professor Battaglia diceva meglio distribuire l'acqua. Ma meglio distribuire, perché i nostri organi, come li chiamava il professor Corradin, il dottor Corradin, sono degli emuntori che funzionano 24 ore su 24, e caricarli tutto in una volta non è che vada bene, però in ogni caso meglio di niente. Se deve bere e ha la possibilità di berlo solo al mattino, va bene anche così. Poi un'altra cosa, non dobbiamo troppo criminalizzare il sodio. Il sodio è una cosa che dobbiamo conservare nella dieta. Poco fa, quando c'erano i mercati, dicevamo col mio amico Speciani che lui fa maratona. Chi fa, per esempio, chi va in palestra o chi lavora negli alti forni, nelle fabbriche molto calde, quando recupera l'acqua deve recuperarla con dei sali dentro, perché se no la nostra pressione, a proposito di quel nostro amico che ci parlava dell'ipertensione, altro che ipertensione, diventiamo ipotesi. Quindi nella giusta quantità. Abbiamo pensato anche agli sportivi, ai maratoneti, ma anche a chi fa dei lavori e quindi usuranti, come quelli che ha citato il nostro professor Battaglia. E noi stiamo entrando nel weekend, a proposito di disintossicazione, cerchiamo anche di liberare la testa dai pensieri negativi, quel famoso staccare la spina. È in fondo un invito a scaricare le tensioni, a vedere le cose sotto un'altra luce. Noi non possiamo stare bene nel nostro corpo se la nostra mente è affaticata, intossicata tra virgolette da preoccupazioni inutili. Quelle vere purtroppo non possiamo accantonarle, no? Allora tocca occuparsene. In linea con noi abbiamo il dottor Maurizio Corradin, medico esperto di medicina tradizionale cinese, direttore del comitato scientifico di Le Fei Resort. Buongiorno dottor Corradin, benvenuto. Buongiorno a te e a tutti voi. Come insegna la medicina cinese, dobbiamo cercare di agire sia a livello del soma che della psiche. Dottor Corradin. Certamente. Il cervello per la medicina cinese è un po' reni e un po' cuore. Come diciamo noi, è un po' jing e un po' shen, quindi è un po' sostanza e un po' spirito. E non avendo a disposizione un pulsante per spegnere il cervello dopo le ore lavorative oppure durante il weekend, dobbiamo, se siamo carichi, dobbiamo trovare altri sistemi per farlo. Ovviamente ci sono piante che aiutano a spegnere il cervello, volendo ci sono farmaci che aiutano a spegnere il cervello e quindi a dormire meglio, per esempio, però ci sono anche delle tecniche che possiamo fare e delle considerazioni che sempre possiamo avere. Ad esempio, una cosa semplice che possiamo fare è ricordare un detto che dice che la distanza geografica immette distanza emozionale dalle cose. Questo significa che andare via nel weekend è un modo veramente importante per staccare fisicamente e anche per staccare il cervello. Se poi utilizziamo un altro detto che dice che il passato va lasciato andare, che il futuro è degli dèi e che il presente è nostro, bisogna utilizzare quelle tecniche che immettono nel presente. Una di queste, ad esempio, è la meditazione, che è una grande tecnica per spegnere il cervello. Un'altra ancora, ad esempio, il traino autogeno, oppure un'altra tecnica che spegne il cervello è l'attività fisica, proprio per questa caratteristica di immetterci nel presente, di farci sentire il nostro simbolo, i nostri simboli. Io ricordo sempre che quando noi diciamo io, nessuno mette la mano sulla testa o sulle ginocchia, la mettiamo sempre nel centro del torace. Quando si dice mea culpa, si batte il centro del torace, perché lì c'è l'identificazione dell'uomo e per certi aspetti anche della sua mente. Quindi tutte le attività che hanno questa caratteristica, che hanno questa capacità di aumentare il ritmo, e l'attività fisica è una di queste, tendono a spegnere il cervello. E quindi approfittiamo, dottor Corradin, perché io sto per salutarvi di questo weekend, per ritornare un po' al centro, l'attività fisica. Il professor Battaglia è a Milano, quindi il sole c'è, almeno a Milano. Non so in Sicilia se l'è portato dietro. No, c'è un dietro. Bel temporale. Ecco, vede, quindi io mi tengo qua il professor Battaglia. Bene, e così andiamo a correre, dottor Speciani, e noi siamo a posto. Dottor Corradin, grazie al professor Battaglia, al dottor Speciani. Molti di voi ci hanno scritto delle ricette con le verze e noi le metteremo sul nostro profilo Facebook. Grazie a voi per essere intervenuti e per averci seguito. Un saluto e ci sentiamo lunedì. Essere e benessere.